diretta dagli studi di Radio Panorama, Andrea Massaro, Antonio Panzica e Alessandro Montemagno presentano L'Onda in Onda. Store. You're gonna give them all your money. Radio plays what they want you to hear. Tell me it's cool, I just don't believe it. Sell out with me, oh yeah. Sell out with me tonight. The record companies only give me lots of money, and everything's gonna be alright. Bene, benvenuti di nuovo a questa puntata dell'Onda in Onda, questo giorno eccezionale di giovedì, per questa puntata che è solitamente non del mercoledì, per chi ci ascolta sempre lo sa, ma oggi insomma stiamo andando in onda di giovedì in questa bellissima giornata di pioggia, purtroppo, almeno qui in Sicilia. Almeno è fresca, sì, infatti il caldo ci ha abbandonato per un pochettino e noi siamo tornati proprio oggi perché ieri insomma abbiamo avuto delle migliorie da portare al programma che scoprirete soprattutto nella prossima settimana, ma un anticipo possiamo darvelo, ovvero che andremo anche in replica proprio il mercoledì stesso, facciamo una replica notturna della nostra puntata dalla mezzanotte alle 2 di notte, quindi per chi non riesce ad ascoltarci nel nostro solito orario delle 18.30 alle 20.30, insomma ci potrà ascoltare anche per chi non riesce a dormire. E anche per chi non riesce a dormire, insomma siamo una bella cura contro l'insonnio, perché insomma ascoltandovi poi ci si addormenta subito. Va bene, allora diamo subito i contatti per rimanere in contatto con noi e seguire la puntata. Radiopanorama.info per seguirci in streaming, oppure facebook.com/londa in onda se volete comunicarci qualcosa alla nostra pagina, twitter.com/onda in onda senza la L per interagire con noi tramite Twitter con l'hashtag Onda in Onda, e poi niente, ovviamente le nostre frequenze che sono 107, 106, 4, 104 e 1. Ma non possiamo non iniziare questo programma se non con la nostra sigla. 1, 2, 3, 4. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. A cavallo di quest'onda spallottato da sponda a sponda, seguendo un'altra volta la grande sponda che ritorna. Onda in onda, bombo, clappio, doccia, piano, se va. 1, 2, 3, 4. Noi siamo i giovani. E a chi ci chiede se la nostra sigla è veramente cantata da Piotta quando parla, insomma, quella voce un po' telefonica, sì, è proprio lui, è proprio Piotta, ci ha dedicato ci ha fatto questo omaggio proprio al nostro programma L'Onda in Onda, infatti lo dice, Onda in Onda, P-O-T-T-A, e mosse va, è proprio lui, quindi, insomma, siamo molto contenti, ogni volta quando la sento sono sempre più felice. Va bene, allora, io voglio ricordarvi che per rimanere in contatto con noi, oltre appunto al sito radiopanorama.info o.eu, ci sono gli sms al 380 76 90 204, li leggeremo in diretta, oppure se volete chiamarci qui in studio 091 78 45 230. Ricordiamo un'altra volta gli sms 380 76 90 204, ma li ripeteremo più avanti nel corso della puntata. Oggi in puntata avremo diverse interviste, continuiamo la nostra rassegna di gruppi emergenti e non della musica rock e indie rock, avremo con noi gli Antidoto, interviste telefoniche, poi i Cazzo, non è una parolaccia, si chiamano veramente così, ma è scritto Cuzzo con la K, si pronuncia Cazzo, non possiamo farci niente, è un bellissimo nome d'arte, i Cazzo. Quindi chi c'è oggi? I Cazzo. Sì. Oggi avremo un'intervista dei Cazzo. Sti cazzi. Ci sono i Cazzi. No, dico, pronunciamolo bene, i Cazzi. Quindi il gruppo è Cazzo, loro sono i Cazzi. Sì. No, io sono molto curioso. Dopo ci prendono a parola. Di averli in intervista. Vabbè, ma è presto. Insomma, siamo tutti maggiorenni vaccinati. Chi ci ascolta? Mettete i bambini a letto subito, forse alle 6:30 quando già sì. Sì. Anche perché oggi avremo delle notizie importanti. A parte che non c'è Antonio, il mio co-conduttore, che è impegnato con la tesi di laurea. Oggi ha detto: guarda, non ce la faccio proprio, non riesco. Abbiamo detto: ah, va bene, sei licenziato. Quindi non lo vedrete mai più. In realtà no, il poveretto sta studiando. Quindi probabilmente l'avremo anche lui in contatto, magari. So che è andato, che è lì vicino con qualche istituzione di queste dell'alto. Che lui studia con le istituzioni. Con le istituzioni dello Stato, quindi magari ne avremo l'onore di avere al telefono con noi qualcuno che è lì insieme a lui. Ma vedremo più avanti nel corso della puntata. E poi avremo con noi in intervista qui in studio Paola Castiglia, che è una giornalista della VoceWeb.com, che ha scritto un libro appunto sulla condizione delle donne. Spero di non aver sbagliato il sito, ma sono sicuro di averlo sbagliato. La direttrice di VoceWeb.com, l'avremo qui con noi in studio. Proprio ieri ha presentato il libro qui a Termini Imerese, il punto 52, e abbiamo l'onore, insomma, di averla qui a raccontarci il perché di questo libro. Bene, mi sono dilungato anche troppo. Ci ascoltiamo subito il primo pezzo e poi torniamo qui in diretta, sempre con l'Onda in Onda. Well, don't ask me, I'll never tell. I looked to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. Bella, bella, soprattutto il video. Tra l'altro è un video molto spiritoso in cui lei è innamorata del suo giardiniere fighissimo, poi lui si riscopre gay. E tra l'altro l'attore che interpreta questo ruolo in realtà è veramente gay nella realtà. Infatti tantissime ragazzine su Facebook hanno detto: no, perché? Però insomma è un gran bel ragazzo. Io ci ho fatto anche un pensierino, sai, boom. Questo mi fa piacere. Questo ti fa piacere. Io condivido tutto, sì, sì. Di avere un presentatore che sì. si accontenta di tutto. Vabbè, tutto non, fa bravo. Non lascia niente a nessuno. Esatto. Allora, iniziamo con la prima notizia di quelle che piacciono. Lo so che vi siete connessi qui con l'Onda in Onda per sentire queste vaccate. Però vi assicuro che dalla prossima puntata, avremo anche un ospite che non ci viene a trovare da un po', almeno da quando noi siamo qui. Perché non possiamo fare a meno di polemizzare noi, no? E quindi abbiamo invitato il Presidente del Consiglio del Comune di Termini Imerese per discutere, è una questione che ci sta un po'... ci sta un po' su... avete capito dove ci sta? Sul gruppo musicale. Sul gruppo musicale che intervisteremo fra poco. Va bene, allora, sesso gratis dopo 9 autolavaggi, offerta Ardal Car Wash, dove può essere successo a Kuala Lumpur. Ora, se tu mi dici subito dov'è Kuala Lumpur, caro Boom... Non è Kuala Lumpur, non Lumpur. È Kuala Lumpur, si legge. Lumpur. Lumpur. Mi fido. E dov'è? Fidarmi di te, dico. Sì, ma dimmi dov'è. Dov'è? Dov'è? In Malesia. In Malesia, ma sei bravissimo, ma... incredibile. Allora, infatti è incredibile il modo di fidelizzare il cliente messo in atto da una ditta di autolavaggi di Kuala Lumpur, appunto in Malesia. Dopo 9 lavaggi, infatti, sarebbe scattato il sesso gratuito messo a disposizione grazie ai servizi di alcune giovani escort arruolate per il caso, proprio per soddisfare i clienti. Ma la polizia si è accorta di tutto ed ha arrestato 9 donne vietnamite di età compresa tra i 18 e i 28 anni. Oltre i 4 titolari dell'autolavaggio. Doveva essere solo un'altra operazione di routine, ha detto Amy Shah, poliziotto responsabile del caso. Io quando questi nomi... Amy Shah. Dai, questo è facile. Shah. Oh, Shah. Shah. Shah. Vabbè. Che ha aggiunto, per ottenere l'extra offerte, i clienti dovevano lavare la propria auto per 9 volte entro un certo periodo di tempo. Al decimo lavaggio scattava sesso libero. Poi c'era anche chi voleva il sesso senza approfittare della promozione, ma doveva pagare tra i 26 e i 42 dollari. Vabbè, dai ragazzi, 26 dollari. Ma sesso libero con queste che sono nelle immagini o te la dovevi portare da casa? No, no, era le vietnamite. Tu vai al lavaggio con la signorina. Le vietnamite 18enni. Io mi sto cambiando la sedia nel frattempo, scusate. Sì, non c'è problema, noi qui... Il bello della diretta. Sì, sembri un nano adesso. Ora sembro un nano, sembro ero un bambino delle elementari. Sì. Va bene. Invece le altre notizie sono sempre più belle, ma un po' più drammatiche. Nel senso che sì, sta arrivando la pubblicità, lo so. Tu vai così, io tranquillo. Vado così. Lui. Perché c'è qualcuno che, insomma, per liberarsi della sua amante l'ha, diciamo, fatta mangiare dai cani. Come noi diciamo in Sicilia, ti mangiassero i cani, no? Lui ha fatto proprio a mangiare i cani. La mangiare i cani. È successo a Rio de Janeiro. Avrebbe sequestrato e torturato e infine ucciso la sua amante. Poi ne avrebbe dato i resti in pasto ai suoi Rottweiler per togliere ogni traccia dell'omicidio. Queste le accuse per il portiere di calcio brasiliano Bruno Fernandes de Souza, l'ex star del Flamengo. Ah, il Flamengo, famosissima squadra brasiliana. Che ovviamente sono tutti ballerini di calcio. Questa è proprio no. È terra terra questa battuta è proprio terra terra. Sì, vabbè. Bruno è già in carcere in Brasile. Sta scontando 4 anni e mezzo per il sequestro della sua amante, la modella 25enne Elisa Samudio. Ma ora per l'ex portiere del Flamengo le cose si aggravano ulteriormente, perché le accuse dei pubblici ministeri sono ben più gravi. Secondo la ricostruzione dei fatti formulata dagli investigatori, il corpo della ragazza, che non è mai stato ritrovato, è stato in parte dato in pasto ai cani del calciatore e in parte nascosto dentro il calcestruzzo. È veramente macabra questa cosa. Si tratterebbe di un omicidio premeditato avvenuto nel 2010. Bruno avrebbe coinvolto 8 persone per sbarazzarsi della ragazza che era rimasta incinta dopo una notte di amore clandestino. Tra queste 8 persone anche la moglie. Per ripulire il suo onore, Bruno avrebbe sequestrato la ragazza, avrebbe assistito a barbare torture a cui Elisa era stata sottoposta ed una volta morta avrebbe pianificato e messo in atto l'occultamento del corpo. A quanto pare, quando la giovane aveva cominciato ad essere incinta, Bruno avrebbe reagito molto male ordinandole di abortire, ma la ragazza ha tenuto in grembo il figlio. Bruno ha portato a compimento il suo macabro progetto dopo il parto. Il piccolo Burnico, oggi ha 2 anni... Burnigno. Burnigno, non è Burnico? Ma che Burnico? Che cavolo, io non so leggere queste notizie. Qui è Brunigno, no? Ma perché me le trovate? Io non... Allora, ragazzi, io so parlare italiano, ma queste cose non riesco a leggere le lingue serie. Non sono un acculturato di nomi strani. Ti si incarta la lingua da te. Sì. Quando... Vabbè, ci sono tantissimi giornalisti, anche il TG, che leggono nomi a caso. Insomma, Brunigno, va bene? O Burnico, per dubbio. Brunigno. Brunigno, e che cavolo! Ma sto figlio, a 2 anni è stato affidato alla nonna materna. Dal tribunale minorile. Meno male che non c'è noi la nonna materna, se no Adelaide Warnara. Va bene, io direi che ci ascoltiamo subito il prossimo pezzo. No, ci ascoltiamo subito la pubblicità e torniamo tra l'altro con Paola Castiglia, che è qui in studio con noi, che ci parlerà proprio del suo libro. E vi consiglio di ascoltarla, perché è un'intervista veramente interessante. Spot Aquarium.

Bene, allora, come vi abbiamo annunciato prima della pubblicità, abbiamo qui oggi con noi all'Onda in Onda Paola Castiglia, una giornalista siciliana, direttrice della voceweb.com, spero di averlo detto bene perché l'ho scordato più volte durante la trasmissione, e ha scritto un libro quasi un anno fa che ha presentato proprio ieri qui a Termini Imerese al Punto 52, che si chiama Un'altra donna è possibile, voci fuori dal coro nell'Italia del Bunga Bunga, edito da Vertigo. Questo libro parla, diciamo, della condizione delle donne in Italia, avete capito bene, dopo, insomma, l'era della fine del berlusconismo, tutto il passato del Bunga Bunga. Io darei proprio a lei la parola per spiegarci un pochettino questo libro, di cosa tratta e soprattutto le belle interviste che ci sono all'interno. Paola, benvenuta intanto all'Onda in Onda. Grazie, buonasera a tutti. Il mio libro, sì, il libro nasce in realtà alla fine dell'epoca, come l'hai tu definita, dell'epoca del Bunga Bunga. In realtà non è un libro sul berlusconismo, è un libro su quello che la donna era diventata non dopo gli anni del berlusconismo, ma negli ultimi 30 anni, nonostante le grandi conquiste che la donna in Italia aveva ottenuto, soprattutto, insomma, negli anni 60, alla fine degli anni 60, nei primi anni 70, a un certo punto era come se queste conquiste alle donne fossero bastate. E quello che questo libro vuole denunciare è proprio questo, il fatto che a un certo punto le donne un po' tranquille del fatto di avere ormai propri determinati diritti, un po' perché effettivamente indottrinate, se vogliamo, mi ci metto anch'io, che negli ultimi, ho 35 anni, quindi sono cresciuta con i 30 anni della TV di Mediaset, della TV diciamo del drive-in di Colpo Grosso, come dico io nel libro, effettivamente poi forse indottrinate, come dicevo prima, da queste modalità abbiamo cominciato a pensare che essere donne in Italia non fosse più necessariamente puntare sulle nostre forze, ma in alcuni casi anche scegliere di scendere a compromessi. Era quello che si vedeva soprattutto appunto negli anni del Bunga Bunga. E questo poi, tra l'altro, dimostra anche un famoso documentario, Il corpo delle donne, che è stato, insomma, adesso viene quasi trasmesso in televisione, ma per anni è stato, diciamo, facente parte soltanto della rete, e lo dimostra ampiamente. Tu invece cosa hai raccontato in questo libro? Hai deciso di scriverlo, insomma, e andando a intervistare un po' di personaggi conosciuti anche della politica, che, come mi anticipavo tu prima dell'intervista, non sono passate dal letto di un politico per arrivare dove sono, e sono più che altro competenti rispetto a chi c'è stato passato proprio sul letto di un politico per arrivare dove si trovava. Sì, l'idea era quella, cioè io volevo dimostrare, volevo raccontare, soprattutto anche pensando che in qualche misura queste interviste potessero essere lette all'estero, ho pensato di raccontare il fatto che in Italia le donne non erano esattamente quelle che negli ultimi tempi i media ci raccontavano, cioè non erano le ministre che arrivavano al posto di rilevanza perché appunto avevano deciso di scegliere la strada delle scorciatoie, ma c'erano altre donne in Italia, e ho pensato di intervistare quelle che dal mio punto di vista, anche un po' emotivamente se vogliamo, erano delle donne che davvero per me rappresentavano dei punti di riferimento. Tra queste ci sono Margherita Hack, Carmen Consoli, Carla Fracci, donne che si sono occupate delle cose più svariate, Susanna Camusso per esempio per il sociale, Monica Frassoni, Rossella Muroni, Rita Borsellino, insomma io ho raccolto tutte queste interviste. Rosi Bindi? Rosi Bindi no, avrei pensato in realtà... No, sai perché te lo chiedo? Perché quando abbiamo intervistato Paola Concia, anche lei ha parlato nel suo libro della Bindi, però scontrandosi pesantemente con il suo modo di pensare, quello però è un libro diverso in realtà, parlava sempre delle donne, ma più che altro dei diritti negati sia alle coppie omosessuali che alle donne, si scontrava molto con la Bindi, per questo te lo chiedevo. Sarebbe stato interessante sentire la Bindi più che altro come donna offesa, perché il libro ne parla, parla del suo caso di donna offesa, e la chiama in causa appunto nella prima intervista Margherita Hack, perché la Bindi è stata davvero pesantemente offesa quando le è stato detto che era più bella che intelligente, giocando sul fatto che lei, giocavano sul fatto che magari non fosse una donna appariscente, una donna secondo i canoni tradizionali anche, considerata bella. Scusami, ti interrompo, anche nella barzelletta di Berlusconi. Sì, anche nella terribile barzelletta di Berlusconi, dove appunto addirittura poi alla fine ci fu anche un vescovo che disse che anche quella bestemmia andava contestualizzata, insomma era un'Italia grottesca, che quasi il giorno dopo, rispetto alla caduta del governo Berlusconi, Berlusconi è sembrato volessimo dimenticare o avessimo già dimenticato come una delle ere più tristi, non politicamente, non per un fatto politico, ma proprio per un fatto etico, perché si stavano veramente trasgredendo tutti quelli che erano i più basilari principi del rispetto della persona e soprattutto della donna. Chiamavo in causa il caso di Rosy Bindi perché quello è stato un caso eclatante per il fatto che lì la bellezza della donna veniva messa come metro di valutazione del valore della donna, mentre il valore della donna, ed è quello che il libro vuole raccontare, è esattamente un'altra cosa. Il valore della donna sta nella propria interiorità, nel percorso culturale, nel percorso di vita che queste hanno fatto, quindi quella è la cosa veramente importante. Qual è stata l'intervista che ti ha colpito maggiormente, che ritieni che sia il punto cardine del libro, per fare un sunto? Ma in realtà questa è una domanda che spesso mi hanno fatto. Tutte le interviste hanno dei picchi di interesse molto alto, perché ovviamente sono donne che raccontano delle storie, raccontano le proprie storie, ma raccontano anche nel corso della vita l'incrociarsi delle loro vite con quella delle altre che hanno appunto conosciuto in ambiti, anche negli ambiti più svariati. Diciamo che a me sono piaciuti dei passaggi in modo particolare, per esempio il richiamo alla disciplina di una maestra della danza come Carla Fracci, che richiamava la disciplina proprio per far capire alle bambine, soprattutto perché questo è un libro che pensa anche, che si indirizza anche alle giovanissime, quindi questo richiamo alla disciplina, l'importanza di riuscire a far propria la propria passione sulla propria carne, sulla propria pelle, quindi con fatica anche fisica. Ho anche un passaggio molto interessante della direttrice di Legambiente, Rossella Muroni, dove lei diceva: noi siamo donne e l'essere donna, arrivare al potere per una donna, in realtà è esattamente l'opposto che l'arrivare al potere per un uomo. L'uomo arriva al potere quasi per soddisfarsi di questo potere. La donna nella vita, per ego. La donna nella vita ha delle soddisfazioni anche molto grandi, che possono essere quelle, per esempio, di dare la vita, che, se vogliamo, da un punto di vista metafisico, può esaltare anche l'ego della donna molto più del potere che può dare una poltrona politica. Quindi le donne non hanno bisogno di questo tipo di gratificazione. Se arrivano al potere, devono arrivare al potere per cambiare le cose. Quella deve essere davvero la cosa importante, la cosa per cui noi dovremmo essere spinte a ricoprire posti di rilevanza. Su questa cosa delle le donne insomma hanno più soddisfazione a dare la vita, io non voglio immaginare cosa potrà dire la mia ragazza dopo averla sentita, perché lei sostiene che invece è più importante la soddisfazione personale, lavorativa, di una carriera. Però sono due modi di vederla, no, in maniera differente. Invece volevo chiederti una cosa, no, se vuoi rispondere, se vuoi replicare. No, dico, penso che siano soddisfazioni diverse, nel senso che era solamente un parallelo. Noi percorriamo delle carriere politiche che vogliamo raggiungere con forza e con diciamo anche con rigore, per sicuramente riuscire a sentirci poi alla fine realizzate professionalmente, però non abbiamo bisogno di quelle per avere per essere centrate in noi stesse. Certo. Perché già l'essere donna è un aspetto molto completo, per cui proprio per questa ragione diciamo che se abbiamo quel di più, che può essere il raggiungimento di un posto di rilevanza o addirittura di un posto di potere, a quel punto da donne dobbiamo comportarci per cambiare le cose e cambiare anche la società. Allora io ti volevo fare questa domanda. Visto che hai intervistato queste persone e ne hai scritto poi un libro, quindi hai analizzato, avendola vissuta come gran parte di noi e di quelli che ci ascoltano, la situazione che c'era nell'epoca berlusconiana e quella che c'è adesso con Monti, come pensi che andrà a finire? Cioè, il ruolo della donna, soprattutto nei posti di lavoro, nei posti di potere, quale sarà? Così facciamo un po' il pronostico, immaginando, vedendo il cambiamento che c'è stato. Ma questo è un periodo che vede una società profondamente in crisi. Io credo che qui il problema sia più il problema delle persone, quasi come se il problema di genere, di sesso maschile o femminile, sia passato in secondo piano, perché in questo momento i diritti delle persone, in un momento di crisi profonda, sono messi a repentaglio. Quindi non so fare pronostici, però sicuramente credo che dobbiamo tornare a puntare intanto sul rispetto della gente, sul rispetto della dignità delle persone, perché in questa società in questo momento di profonda crisi sembra quasi che siano più le merci a contare, più lo spread, più il fatto di far quadrare i conti di uno Stato che sicuramente era in crisi profonda, piuttosto che il rispetto della gente, e questo credo che sia veramente grave. Poi tornare a parlare di genere è fondamentale, ma dopo aver parlato del rispetto delle persone. Sei molto ottimista perché vedo che hai parlato di Berlusconi al passato e della crisi al passato, quindi insomma no, è presente la crisi, però spero insomma che finisca presto. Va bene, allora Un'altra donna è possibile è in tutte le migliori librerie, ovviamente anche qui a Termini Imerese, se volete venire a comprarlo. E niente, l'intervista è finita, ringraziamo Paola Castiglia per esserci venuta a trovare e ci ascoltiamo nel prossimo pezzo e ritorniamo subito dopo. Ciao Paola. Grazie a voi. Ciao. Spot 2N Centro Rigenerazione Cartucce, amico dell'ambiente e anche del risparmio. Da noi vendita di cartucce compatibili, stampanti e computer rigenerati, telefonini e accessori. Siamo anche specializzati nella rigenerazione di cartucce inkjet e ancora fotocopia a colori, email, fax, cancelleria e modulistica. Ma non è finita, con MoneyGram inviamo con assoluta sicurezza denaro in Est Europa e America Latina, con tariffe davvero speciali. Inoltre puoi acquistare prodotti su chl.it e ritirarli direttamente da noi. Ci trovi in Piazza Sant'Antonio a Termini Imerese con telefono fax 091 50 72 715, email centro2n@libero.it. 2N di Aglieri Rinella Agata, il prezzo giusto al momento giusto. Panorama. I sapori intensi di Sicilia in tavola. Se vuoi assaggiare la vera cucina tipica siciliana con prodotti locali provenienti dalla nostra azienda, a Ficurigna. Delizia il tuo palato con le nostre specialità o prova una delle tantissime pizze cotte nel forno a legna. Ti puoi anche accomodare nell'ampio terrazzo all'aperto o, se vuoi le nostre prelibatezze, te le consegniamo anche a casa. Pizzeria Ristorante a Ficurigna. Contrada San Giovanni in Ligreci, sulla strada provinciale 21, al chilometro 5,2 a Caccamo. Panorama. Musicalmente insieme, un programma tutto da scoprire con tanta buona musica, opinioni ed ospiti. In studio per voi Vito Inchiappa, ogni domenica dalle 9 alle 11, naturalmente su Radio Panorama. Sono le ore 19 e 4 minuti. Clinton, gli USA non hanno niente a che fare con il film, proteste nel mondo arabo per la pellicola blasfema, Van Rompuy per un ministero dell'economia europeo, scende il numero di sfollati nel modenese, in chiusura come sempre le previsioni del tempo, tra poco nell'edizione delle ore 19. L'impossibile non è un dato di fatto, è solo un'opinione. Niente freni. Libera la tua voglia di cambiare look con la tecnologia di Style Me Pro Air Styler. Scoprirai e proverai in 3D virtuale se il tuo nuovo taglio di capelli e il colore che hai scelto funzionerà. L'impossibile oggi è possibile con Style Me Pro, lo specchio 3D che sta rivoluzionando l'air style. Realizza i sogni dei tuoi clienti. Installa nel tuo negozio Style Me Pro. Chiama il numero verde 885 84 90. 885 84 90. Sono gli eventi impossibili a rendere le cose straordinarie. Style Me Pro, lo specchio 3D dell'air styler. Giovedì 13 settembre, buonasera dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Gli USA non hanno niente a che vedere con il film anti-Islam, è disgustoso e riprovevole. Così il segretario di Stato, Hillary Clinton, in una diretta TV, ha preso le distanze dal film L'innocenza dei musulmani, del regista israelo-americano Sam Balis, che sta scatenando la protesta del mondo islamico. Centinaia di palestinesi hanno risposto alla chiamata di Hamas, che ha esortato i cittadini della striscia di Gaza a protestare contro il trailer del film blasfemo su Maometto, prodotto in America. Il ministro per gli affari religiosi Ismail Radwan, che ha convocato la manifestazione, ha anche esortato i palestinesi a boicottare i prodotti americani e ha indetto una nuova manifestazione per domani, dopo le consuete preghiere del venerdì. Anche a Tel Aviv, una sessantina di persone ha protestato davanti all'ambasciata americana in una manifestazione organizzata dal movimento islamico in Israele. E cambiamo argomento. un rafforzamento delle politiche economiche comuni per migliorare la competitività, una maggiore cooperazione tra Europarlamento e Parlamenti nazionali, nuove strutture democratiche per l'Eurozona. Questi i temi rilanciati dal presidente dell'Unione Europea Herman Van Rompuy e sottoposti ai governi dei 27 al Parlamento Europeo, in vista della preparazione del rapporto dei quattro presidenti, su cui si aprono le consultazioni la prossima settimana. La delegazione italiana, guidata dal ministro agli affari europei Enzo Mavero, sarà tra le prime a essere consultata lunedì 17. Scende il numero di sfollati nel modenese. Elisa Storace. Sono circa 4.000 rispetto ai 12.000 di giugno gli sfollati nel modenese. All'appello di martedì risultavano infatti 3.044 nei campi e 917 negli alberghi. I campi sono scesi a 19 con altri due in via di chiusura a San Prospero e a San Felice. Il centro operativo di Marzaglia sta coordinando con i comuni la fase di progressiva dismissione dei campi. Elisa Storace, linea allo studio. Le previsioni del tempo per domani, venerdì 14 settembre, soleggiato con cieli sereni e limpidi al nord-ovest, Emilia occidentale e Trentino Alto Adige. Molte nubi nel resto d'Italia, ma con tendenza ad ampie schiarite sulle Venezie e Alta Toscana. Piogge sparse su Romagna, regioni centrali adriatiche, Umbria, Lazio, regioni meridionali e Sicilia. Da segnalare rovesci e temporali anche forti su Marche, Abruzzo, Molise, Bassa Campania e versanti tirrenici di Calabria e Sicilia. Con questa notizia è tutto, l'informazione torna domani mattina. A voi tutti l'augurio di una buona serata. Together now we're undone. Won't commit, so we choose to run away. Do we separate? Oh, wanna give it, so we both gave up. Can't take it back. It's too late. Reach the climax. I've fallen somehow. Feet off the ground. Love. Is the cloud that keeps raining down? Where are you now? When I need you around, I'm on my knees, but it seems we're going our fast. We've reached the climax. We're together now. We're undone. So we choose to run away. Do we separate? Oh, don't wanna give it, so we both gave up. Can't take it back. It's too late. We reached the climax. I gave my best. It wasn't enough. You get upset. We argue too much. We made a mess of what it used to be, love. So why do I care? I care at all. So we choose to run away. Bene, siamo tornati in diretta, allora diamo subito di nuovo i contatti per chi vuole rimanere in contatto con noi: facebook.com/londainonda, la nostra pagina, poi twitter.com/ondainonda per chi vuole scriverci su Twitter con l'hashtag ondainonda, e poi sms al 380 76 90 204. Ovviamente salutiamo chi ci sta già ascoltando e ci scrive nella nostra pagina: Ignazio, poi Francesco e Riccardo e Claudio, che tra l'altro diciamo condurranno il loro programma subito dopo di noi, come ogni giovedì. Tra l'altro, noi ci siamo appropriati di questo giorno. Siamo tornati un po' ai vecchi tempi, in cui erano subito dopo di noi. E in effetti è sempre bello ricordare uno dietro l'altro che ci si accavallava in radio, perché ci seguiva, insomma, da prima di essere qui su Radio Panorama. Bene, allora, io direi che prima di, insomma, fare le nuove interviste con i Cazzo e gli Antidoto. Io non mi ricordo di fare interviste con i Cazzo. Ricordiamo che è ovviamente scritto KUTSO, quindi Cuzzo, ma si pronuncia Cazzo. Sarà fantastico parlare con i Cazzo. Sì, dico, il nome è loro, quindi dico, io non mi assumo nessuna responsabilità. Io direi che è sempre bello, insomma, raccontarvi di quello che potrete fare il sabato sera. Sappiamo tutti quanti che il sabato sera ognuno dice: ma che facciamo stasera, no? Almeno qui in Sicilia, e non si sa bene che fare. Allora vi propongo alcune alternative, sempre musicali. Pino Daniele torna in Sicilia con il nuovo tour, una tournée estiva per promuovere il nuovo album La Grande Madre. Estiva, diciamo no, perché piove a dirotto. 11 brani inediti con la cover di Wonderful Tonight dell'amico Clapton, Eric Clapton. Ora 21:30, 29,90 euro la platea, 19,90 euro posto in piedi al complesso monumentale San Pietro, però a Marsala, ragazzi. Insomma, se vi piace così tanto Pino Daniele, fatevi un viaggetto fino a Marsala. Invece a Catania, Renzo Arbore, accompagnato come sempre dalla sua orchestra italiana, torna in Sicilia l'8 di aprile. Non è possibile, vabbè, avranno sbagliato ovviamente per un live del Teatro Metropolitano di Catania. Ma noi diamo le notizie anche per l'8 di aprile, anche del passato. Sì. No, ovviamente è sbagliato. Al Metropolitano di Catania, da ormai 20 anni, lo showman foggiano gira il mondo accompagnato dalla sua orchestra di 15 strumentisti solisti per far conoscere il patrimonio della musica italiana. 21:30, 69 euro la poltronissima, 51,80 euro il settore B, 39,10 il settore C, 28,80 il posto unico, quindi insomma 30 euro si può fare. Villa Bellini a Catania. Poi invece abbiamo ancora a Palermo Mario Venuti, che insomma farà un concerto per Rosario Crocette. Ricordiamo, ci sono le elezioni regionali, quindi ormai anche i candidati si prestano a portare gli artisti per i loro comizi, e questa volta lo porta Rosario Crocette. Insieme al cantatore siciliano saliranno sul palco di Piazza Maggiore i No Hai Problema, Lucia Lauro percussioni, Marco Faldetta basso e contrabbasso e Irene Lentile alla voce, e i Cortili di Mirò, Manuela Di Salvo la voce, Giuseppe Micicchia chitarra, Davide Privite credo alla voce. 21:30 ingresso libero, Piazza Maggiore, Palermo. Poi abbiamo l'ultimo, ve lo voglio dare. Cosa mi stai consigliando, caro regista? Perché no, vedo che oggi tu io non ho trovato, non trovi, non trovi cose strane con nomi strani, quindi la notizia con, secondo me, è più difficoltosa da leggere questa. Sì, è possibile. La Blue Note Live a Palermo, al Malaluna, alle 22:30, ingresso libero, quindi sabato sera se non volete spendere una lira, ingresso libero al Malaluna a Palermo. Blue Note Live, che riparte la stagione autunnale dei Malaluna con i Blue Note. Il gruppo è composto da Emanuela Sara alla voce, Alberto Badalamenti alla chitarra e Isaia Briscuso al basso. Special guest Luca Maggipinto alle percussioni, quindi insomma Avrete tanto da fare. Sono stato bravo. Ora una notizia che insomma a me e al mio regista ci ha fatto ridere molto perché non ne capiamo il senso di questa notizia. È dell'altro giorno: una ragazza si è fatta tatuare il nome del fidanzato. Diciamo, beh, vabbè, qual è dove il problema di farsi tatuare il nome del fidanzato? Nessuno. Dove non batte il sole, però? Però dall'altra parte, non dove pensate voi. Voi pensate subito a una cosa. Esatto, l'altra. Pensate all'altra cosa. Quella dietro, diciamo. Il lato oscuro. Esatto, il lato oscuro di dove non batte il sole. Perché i tatuaggi, lo sappiamo, vanno di moda. E c'è chi fa a gara farsi il tatuaggio nel posto più strano. Per quel che riguarda questa gara, diciamo che è probabilmente vinta dalla 22enne Maria Louise del Rosario, che si è fatta tatuare il nome del fidanzato No, non è sul, è proprio attorno. Attorno al lì, no, all'ano, all'ano, all'ano. Non solo, ha fatto filmare tutta la procedura e l'ha pubblicata su YouTube. Ora lo so cosa state per andare a fare. Spegnere la radio e cercare Maria Luisa del Rosario su YouTube. Maria Luisa del Rosario si chiama. Tatuaggio. Tatuaggio. Ora staccheranno la puntata, andranno su YouTube a cercarsi. Radio, se sono in macchina si fermano con lo smartphone. Maria Luisa del Rosario. E devo dire che tra l'altro è una gran bella ragazza. Però lei è felice. Cioè, sì, sì, è felicissima. Maria Luisa infatti ha avuto quella che si dice una vita difficile, con il padre tossicodipendente che la picchiava da piccola e ha trascorso in prigione per furto, anche se lei dice di essere stata incastrata dal fidanzato e la madre di lui. Non è chiaro se la ragazza abbia deciso di farsi tatuare il nome come insulto o come gesto d'amore. In effetti, ah, del fidanzato che l'ha fatta arrestare. Sì, cioè, sì, è proprio quello detto, lì. Vattela a prendere. Esatto, e lei ha detto no, vattela a prendere. Molti tatuatori però non condividono l'idea della ragazza e dicono che non accetterebbero di fare un tatuaggio anale perché può comportare complicazioni per la salute, e secondo molti è un valore solamente di shock e per nulla artistico. Ora che avete ascoltato tutta la notizia, prima magari di andarvi a cercare il video, devo dire che è un video molto divertente, oltre che insomma, toccante, perché era, proprio, sì, toccante, perché era circondata da persone mentre la tatuavano completamente nuda e senza censure, diciamo, che tranne poi io uno, non capisco, scusa, sì, giusto, nel video, sì, allora, uno si fa fare il tatuaggio, sì, sull'ano, sì, perché è tutta nuda? Non lo so, perché cioè, probabilmente tatuata l'ano, non tutta, sì, cioè, vabbè, insomma, ognuno ha le sue manie, lo sai com'è. Bene, bene, allora io direi che senti possiamo un po' che c'è sotto. Sì, possiamo ascoltarci un bel pezzo forte. Mentre voi vi guardate questo video, mettete la radio ci sta a canzone, tutto volume, ci sta, così vi gasate di più. Sono i System of a Down con Attua. Crazy, all the world I've seen before me passing by. I've got nothing to gain, to lose. All the world I've seen before me passing by. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. Passing by, silent my voice. I've got no choice. All the world I've seen before me passing by. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. You don't care about how I feel, I don't feel it anymore. Il video con questa se, se l'avete visto, scrivetelo sulla nostra pagina facebook.com/londainonda. Bene, adesso possiamo dire che fra poco avremo, insomma, quello che abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato per tutta la puntata, cioè i cazzo in intervista. Sta diventando il main event. Il main event, sì, è vero, il main event mi mancava della puntata. Prima però diamo un altro piccolo consiglio sul sabato sera. L'Heineken Party a Villa Frati, dopo il concerto di Francesco Renga, il Deja Vu e le Hostess dell'Heineken vi aspettano per festeggiare la fine della stagione estiva 2012 con tanti gadget e buona musica. 23:30, ingresso libero al Deja Vu Lounge Bar di Villa Frati. Oppure c'è sempre un bellissimo appuntamento musicale ai Grilli a Palermo, B-Side in concerto. La serata parte alle 19:30 con un ricco aperitivo e a seguire il concerto dei B-Side, il gruppo acustico formato da Alba Raccuglia alla voce, Francesco Nigro alla chitarra e Luciano Campione al basso. Propone un vasto repertorio che annovera pezzi che vanno dagli anni 20 e 60, ma anche alcune più recenti hit. Alle 19:30 ingresso libero ai Grilli, quindi insomma sapete bene che fare. Hai visto la notizia che ho postato sulla pagina Facebook? No, non l'ho vista. Di cosa stai parlando? Di quell'uomo che è stato arrestato. No, non è stato arrestato, scusate. Questo Questa qui. Condannato a 30 giorni in psichiatria per dei post su Facebook. No, questa non l'avevo vista, ma la leggerò più avanti. In realtà prima quello che volevo leggervi era un'altra cosa che parla, non di arresti, ma sempre di polizia, perché è successo a un ragazzo a Milano l'altro giorno di avere, diciamo, mandato una frase alla fidanzata che ha chiamato la polizia. Voi direte, ma perché? Che cosa c'era scritto? Ha scambiato, scritto, vatti a fare un tatuaggio. Ha scambiato una tragica frase del Romeo e Giulietta di Shakespeare per un messaggio di addio alla vita e, temendo che il fidanzato volesse uccidersi, ha chiamato il 113. Quando gli agenti lo hanno rintracciato e gli hanno riferito perché lo cercavano, dopo un primo momento di sorpresa si è subito precipitato dalla ragazza, e questo è successo a Milano il 3 settembre. La ragazza milanese di 23 anni ha ricevuto un sms dal fidanzato, ma non ha riconosciuto la citazione tratta da Romeo e Giulietta. Invece ha pensato che il fidanzato di 18 anni, originario di Isernia, dove era stato per alcuni giorni e in viaggio verso Milano, le annunciasse la sua intenzione di togliersi la vita. Così ha chiamato sconvolta il 113 e la sua angoscia è stata tanto evidente che la polizia ha inviato una pattuglia alla stazione centrale per intercettare il romantico Romeo. Quando gli agenti hanno individuato, stava tranquillamente uscendo dalla stazione e in pochi minuti è stato chiarito l'equivoco e i due si sono potuti riabbracciare. Ma io volevo sapere, cioè, volevo leggere l'SMS. Vatti a leggere il Romeo e Giulietta di Shakespeare. Anzi, facciamo così: il primo che ci porta la citazione che potrebbe essere quella tragica del Romeo e Giulietta di Shakespeare Vince una chiamata alla polizia. No, ma dobbiamo dire che a breve faremo un vero e proprio concorso dove saranno aggiudicati dei biglietti gratuiti per un festival che si tiene a Faenza. Chi potrà andare? Ci ascoltano da tutto il mondo. Dal 28 al 30 settembre avrà luogo il Faenza, il Super Sound Festival, e metteremo in omaggio in questo programma, con varie modalità di concorso, ne saprete più avanti i dettagli, un biglietto scontato a 5 euro per il concerto dei No Brain di venerdì 28, due biglietti totalmente gratuiti per la serata del 29 settembre con Checco Zalone, Cristina Donà, Zibba, Marco Guazzone, Maria Antonietta, Lo Stato Sociale e Il Genio e tanti altri. Due biglietti gratuiti, ricordiamolo, e un biglietto gratuito per il reading di Pierpaolo Capovilla, che è il cantante del Teatro degli Orrori, di domenica 30 settembre. Quindi ne saprete più avanti di più su questa. Più avanti di più e meno avanti di meno. Ovviamente. È normale. Più avanti daremo le modalità di questo concorso, perché soltanto 4 persone si aggiudicheranno un biglietto scontro al 5 euro, due biglietti gratuiti perché Cozzalone eccetera eccetera, e un biglietto per Pierpaolo Capovilla. Quindi rimanete con noi all'ascolto e avrete la possibilità di vincere questi biglietti. Quindi ascoltateci e ascoltare soprattutto Positive Vibration, che è dalle 21:30, non sbaglio questa volta, 21:30, 23:30 andrà in onda con il loro programma sul reggae. Va bene, allora ci ascoltiamo subito un pezzo e poi finalmente li avremo in diretta con noi, i Cazzo. La soluzione per avere sempre la barca al top? Io l'ho trovata, a pochi chilometri da Cefalù, vicino al porto di Termini Imerese. Si chiama Artemar. Artemar riesce ad offrirti tutti i servizi di cui hai bisogno tu e la tua barca. Ormeggio fino a 20 metri di lunghezza fuori tutto. Invernamento in piazzali per mezzi fino a 24 metri. Alaggio, varo e movimentazione con carrello idraulico fino a 35 tonnellate. E poi trattamenti antiosmosi, verniciatura, falegnameria, elettronica, officina. Tutto con personale altamente qualificato. Artemar, inoltre, è concessionario e assistenza autorizzata dei principali marchi di motori marini. Suzuki, Yamaha, Mercruiser, Volvo, Lombardini Marine. Passa da noi, ti illustreremo tutti i nostri servizi. Artemar, in Contrada Grisone, a Termini Imerese. Info allo 091 811 1890. Artemar, la soluzione giusta per avere sempre la barca al top. Panorama. Il piacere di vivere momenti importanti in un ambiente particolarmente gradevole. Scopritelo presso la sala ricevimenti Moby Dick. Ampie e accoglienti sale immerse nel verde, ideali per festeggiare matrimoni, prime comunioni e cerimonie in genere, ma anche per organizzare congressi. Un incontro straordinario fra raffinata eleganza e ottima cucina, con piatti della tradizione locale e nazionale. Si effettuano anche buffet nella nuova Villa Roberta. Prenota il tuo ricevimento presso Moby Dick, strada statale 113, contrada Corte Vecchia a Termini Imerese. Telefono 091 814 0048 con ampio parcheggio. Moby Dick sarà indimenticabile. Tempo è una canzone che io odio, però vabbè. Ritorniamo in diretta subito dopo la pubblicità. Intanto diciamo che i nostri ascoltatori hanno seguito il nostro consiglio, che non era un consiglio, ovviamente basta dire la notizia e vanno subito a cercare se quando si tratta di topa, come così possiamo dire, perché ci scrive Francesco che ha visto il video della ragazza, si faceva tatuare il nome del proprio ragazzo sul lì dove non batte il sole, il lato oscuro dove non batte il sole, e dice che la tizia sembrava divertirsi parecchio. Bravo Francesco, sarei stato uno dei pochi che l'ha ammesso, tutti gli altri invece no. Bene, allora li abbiamo annunciati per tutta la puntata, e qui con noi in diretta il cantante dei io non ce la faccio a non dirlo, dei Cazzo. Benvenuto, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ma mi spieghi perché Cazzo proprio? Ma guarda, un nome vale l'altro per noi. In realtà quella era una cosa che scrivevo sui banchi quando avevo 16 anni, perché il nostro nome si pronuncia così, ma si scrive K-U-T-S-O. L'avevo detto. Mi piaceva scrivere le parolacce in una maniera, inglesizzandole maccheronicamente, insomma. Bellissimo. Poi alla fine è rimasto quello, così, è un po' per scherzo, un po' per gioco, un po' perché ci piace doganare queste parole e renderle inoffensive, ecco. Bene, allora adesso che me l'hai spiegato posso finalmente chiederti come stai. Beh, voi tutto bene? Noi tutto bene. Allora Matteo, dimmi un attimo, intanto voglio farvi i complimenti per l'EP, perché quando mi è arrivato gli ho detto ah che figata, un 33 giri, invece no, era proprio la custodia, sembrava quella di un 33 giri con dentro montato il CD. Questa scelta è veramente bellissima, come mai? Chi ha avuto l'ispirazione? Guarda, questa è una genialata della nostra etichetta, la 22R, che è l'etichetta che ha prodotto, cioè che ha distribuito e stampato l'EP. Noi ci siamo conosciuti con questa idea, loro ci hanno proposto questo packaging, a me è sembrata una idea fighissima e quindi abbiamo fatto da cavie, perché poi è la prima volta che loro sperimentano questo packaging, è anche stato brevettato, quindi insomma è così, uno scherzo, un gioco. Guarda, posso dirti che la cavia sono stato io, perché quando mi è arrivato ho detto sì. Ah, appunto, che figata, il 33 giri, e ho provato a metterlo nel lettore nel giradischi. È lui il genio. Il genio. Oh, sono Dio, però non l'hai rovinato. No, perché ti spiego, quando mi sono reso conto che non entrava, perché non ho fatto caso che al centro c'era l'attacco del okay. Ho detto ma che poi ho capito, ho detto no, ma questo è un CD, e l'ho aperto, sono rimasto veramente malissimo. Non avevo nemmeno, cioè, l'inganno è stato tale che anche il tatto mi ha ingannato, invece di essere di plastica l'ho percepito proprio come alla fine disse cazzo, ho detto che cazzo. E quindi vedi, il nostro nome è sulla bocca di tutti, infatti. esatto. Allora dimmi un attimo, come è nata l'idea tanto di questo EP, perché io so che avete scritto più di 30 brani mai pubblicati, leggo quel che leggo, sì. Più di 30 brani mai pubblicati, però avete fatto solo un EP. Spiegaci un attimo la storia del vostro gruppo, del vostro modo di fare canzoni, e poi questa scelta di pubblicarle soltanto così pochi. Ma perché noi pensiamo che comunque per fare un'uscita ci debbano essere dei motivi, nel senso che noi registriamo una canzone, poi la mettiamo online, se capita facciamo un video, e quindi le nostre canzoni sono in realtà fruibili e a disposizione di tutti. Però non si era mai presentata appunto l'occasione di un'etichetta, insomma di qualcuno che partecipasse insieme a noi al progetto, perché di autoprodurcelo totalmente non mi va, cioè non ci andava e non ci andrà mai, perché comunque farselo totalmente da soli, senza una terza persona, innanzitutto artisticamente è anche un limite, perché comunque avere un orecchio esterno, una voce che ti dice, ti dà anche contro, insomma ti fa crescere. E poi perché comunque a livello di divulgazione e promozione è sempre meglio essere in più persone. Capisco, ma avete intenzione di pubblicare un altro album, magari un LP? Allora, ci sono un po' di cose nell'aria, insomma, noi ultimamente stiamo vivendo un periodo felice, stiamo suonando molto e ci chiamano un po' dappertutto, quindi abbiamo avuto degli interessamenti intorno a noi. Vediamo, probabilmente tra febbraio e giugno dell'anno prossimo uscirà un disco che poi conterrà sia i brani che già sono usciti, cioè che già stanno in giro, e altri che stiamo arrangiando in questo momento. Ho capito. Tra l'altro io devo dire, a me questa cosa fa morire dalle risate, la vostra pagina Facebook è stupenda, è Cazzo Che Fico, quindi vi consiglio agli ascoltatori subito di andarvi ad aggiungere, a seguire, perché è molto bella. Volevo chiederti, per quel che riguarda invece il sound, sì. Dimmi un aspetto che riguarda il vostro sound, a chi vi ispirate, quali sono i vostri, diciamo, da chi prendete ispirazione proprio per comporre le vostre canzoni? Ma noi, innanzitutto noi scriviamo le canzoni che vorremmo ascoltare in giro, quindi siamo abbastanza autoreferenziali, però diciamo che le nostre influenze vanno da Michael Jackson ai Beatles, a Battisti, a Giorgio Gaber, a Totò, ai Nirvana, insomma spaziamo un po' dappertutto, ci piace il ritmo ma ci piace anche il suono duro, insomma, quindi questo cerchiamo. Quando dico Giorgio Gaber è più un discorso testuale, abbiamo questo modo di scrivere un po' irriverente, un po' uno scherzo, un po' amaro, un po' sarcastico, insomma è un miscuglio di tante cose. Dall'Italia a Seattle, possiamo dire. Bene, ciao, ma, sì. Ma per il vostro EP, Aiutatemi, come mai Aiutatemi a far cosa? Cioè, ma guarda, quell'Aiutatemi ha varie sfaccettature, Aiutatemi da me stesso, Aiutatemi a far sì che io abbia il mio spazio, insomma è in realtà le canzoni, io mi assumo la responsabilità della composizione dei brani, perché per quanto riguarda i testi e l'armonia, quindi la composizione delle canzoni, me ne occupo io sono Matteo, sono il cantante. Ah, poi scusa, vabbè, ne approfitto per presentare tutti, cioè, sì, infatti. Alessandro alla batteria, Donatello alla chitarra e Luca al basso. Vi dicevo, io mi occupo della composizione. Quelle canzoni sono, dovresti pensarle come uno che si guarda allo specchio e fa resoconto della propria vita in ogni momento, insomma, quindi sono delle fotografie di sensazioni vissute in determinati momenti, insomma. Senti, ma è vero che per un gruppo che cerca di emergere in questo periodo è più semplice farsi conoscere con i live e con internet che con un album o autoprodotto, o comunque prodotto da un'etichetta? Cioè, i live contano molto per voi. Allora, tu hai toccato un tasto che poi si ricollega alla domanda che mi hai fatto prima. Questo è anche il motivo per cui non abbiamo mai fatto un disco, perché comunque, poi come dici te, tanto fai un disco e se tu non hai una rete distributiva o promozionale è inutile, cioè fai molto di più con internet e appunto mi dici te con i live. Internet diciamo che è la cosa più, cioè puoi arrivare a più gente in brevissimo tempo e poi naturalmente il live se sei forte ti aiuta, il live ti aiuta se sei valido, perché lì non ci sono trucchi, prendi i suoni, se sei figo bene, se no te ne vai via, ed è giusto così, è una selezione naturale. Esatto, ma senti, tu che consiglio vorresti dare ai nostri ascoltatori? Ce ne sono tanti che ci stanno ascoltando, che suonano e magari sono costretti soltanto a fare delle cover, perché la legislazione per quanto riguarda i pezzi scritti di propria mano è molto, molto restrittiva, per diciamo farsi conoscere, emergere proprio per i pezzi che producono da soli. Più che consigli posso dire quello che facciamo noi. Innanzitutto siamo quattro musicisti che campano di musica, cioè vivono di questo, quindi comunque anche noi suoniamo con, cioè, insomma, chi insegna, chi fa il turnista, chi fa le cover, insomma, quindi fare tutto sicuramente. E poi quello che abbiamo fatto noi è continuamente autopromuoverci su internet, soprattutto per quanto riguarda la nostra tra virgolette immagine. Noi ogni volta che facciamo un concerto mettiamo sempre le foto online, infatti tu dicevi Facebook è pieno di foto dei nostri concerti. Fortunatamente siamo abbastanza fotogenici e quindi insomma esce fuori dalle foto che i nostri concerti sono comunque una festa, sono divertenti, sono un momento di aggregazione e senza senso, un momento di aggregazione senza senso, ecco questo. E tra l'altro sono abbastanza pieni, vedo le foto e sono sì, come ti dicevo è un momento felice, insomma stiamo in crescita, stiamo cercando di dominare il mondo. Perfetto, senti, allora noi ti ringraziamo per questa intervista e ci ascoltiamo subito il tuo pezzo Aiutatemi, e vi invito a visitare veramente la pagina dei Cazzo su Facebook. Cazzo che figo, ti ringraziamo Matteo. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Finisco continuamente a fare cose che non voglio, se le faccio è solamente per riempirmi il portafoglio. Aiutatemi, vi ringrazio. Trovo sempre mille scuse per non muovere un dito e poi lancio le mie accuse da trentenne fallito. Aiutatemi, vi ringrazierò. Indicatemi la via, la seguirò. Decidete voi per me perché me sono per cazzo. Se la vita è un percorso, la mia è un vicolo cieco, un inutile discorso in un deserto senza eco. Ascoltatemi, io mi ascolterò. Se non fossi un cagassotto sparirei in un momento, con un solo grande botto contro un muro di cemento. Aiutatemi, vi ringrazierò. Indicatemi la via, la seguirò. Decidete voi per me. Sama di bombe, oh yeah yeah, oh sama di bombe, bombe, bombe, yeah. Slip away to the never anymore, feel the leaving in a holiday. Sama la mona, ya tu tu sa tu, slip away to the never anymore. Aiutatemi. Ma veramente fortissimi questi Cazzo. Davvero, davvero, davvero belli. Bravo Matteo, bravi tutti. Bravi sì, sì, tutti. Sì. No, ringraziamo. Bravi per Cazzo. Insomma. Bravi Cazzo, evviva i Cazzo. Bene, mi chiamano, mi dicono qui appunto dalla regia che avete appena sentito nel fuori onda che qualcuno di veramente importante ha deciso di telefonarci. Non possiamo non non mettere il suo, diciamo, il nostro, l'inno di tutti, l'inno di Mameli, perché abbiamo con noi al telefono il presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. Pronto? Pronto? Pronto? Presidente? Pronto? Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Napoli International. No, presidente Napolitano, questo è Radio Panorama. Mi sono confuso, chiedo umilmente venia. Ma quindi non voleva chiamare noi? No, volevo chiamare voi, ma ho invertito i nomi in rubrica, cioè, insomma, un casino, è meglio che manco spiego. Ma che significa? Sono veramente si è confuso. La testa incasinata, esatto, ho avuto veramente una settimana, ma che dico un mese, ho fatto di tutto e di più, cioè una cosa incredibile. Che è successo, presidente? Ci spieghi, perché tutti parlano di lei su tutti i giorni. Appunto. Allora, io ho fatto un po' un giro, perché dico, io perché devo sapere solo quello che avviene nel mondo aprendo telegiornale o parlando con Clio? Tra l'altro è stato in Sicilia, presidente, è stato a Salina. Sono stato a Salina per fare una vacanza, così, qualche giorno, un bed and breakfast, insomma, da poco. Ma non è vero, io sono per la sobrietà, come chiedono tutti i ministri, sobrietà. Sobrietà. Allora, presidente, di cosa voleva parlarci? Perché so che ci ha chiamato con una certa urgenza. Bah sì, io parlavo con certa urgenza perché in questo mese appunto sono stato in diversi posti, sono stato con quelli della GESIP a Palermo, sono stato al Festival di Venezia, all'Alcoa, sono stato un poco ovunque a girare un po' quello che succedeva, e in tutto questo Antonino Ingroia, tiè. Ma perché, presidente? Perché un tiè ad Antonino Ingroia? No, ho detto che Antonino Ingroia, non ci sta la R. Ah, ma presidente, ma che dice? Ma insomma, già c'è una polemica molto accesa. Lei mette il carico da 90, non facciamo polemica, noi ci dissociamo. Ma pure dei 120, io per la briscola questo ed altro. Ma che? Ma stiamo passando e questo ce l'ha tutto col presidente. Io sono la prima carica dello Stato. E vabbè, presidente, ma dico, anche lei è un cittadino come gli altri, no? Non è vero, ma lei l'ha mai letto La fattoria degli animali? Sì, purtroppo, il fatto che lei la citi non mi rassicura. Senta, presidente, lasciamo stare questo argomento. Mi spiega una cosa, ha sentito, no, che ci sono stati delle proteste molto forti in Libia per quel che riguarda il film che... Sì, ho sentito. Adesso sì, l'America ha mandato... Pare si vede Maometto in mutande. No, so. Presidente, per favore, che bombardano anche il nostro studio. Se dici ma magari, così mi risparmio un 10 minuti di rottura di coglione. No, sì, presidente, dice, presidente, per favore. No, guarda, prego. Un minimo di contegno anche... Dico, lei... Sì, mi contengo. Non vorrei mai dirlo, un po' di carica, una carica così alta, non mi permetterei mai, ma dico, ogni tanto passa il limite. Senta, dico, adesso l'America ha inviato, no, due navi da guerra lì in Libia, ma lei pensa che l'Italia potrà magari cercare di mediare la crisi dopo che Gheddafi è morto? Abbiamo perso un ruolo istituzionale forte in politica estera, presidente. Ma guardi, secondo me, per come siamo combinati come crisi, mentre loro hanno mandato due navi cariche di missili Tomahawk, noi a massimo mandiamo le navi piene di tomato, nel senso di ketchup, cioè non teniamo niente, neanche gli occhi per piangere. Quindi, che dobbiamo mediare? Non mediamo, non ce ne frega niente, scoppia una guerra. Ma non ce ne deve fregare veramente un cazzo. Scusate il termine. Presidente, veramente, lei è sempre un vero piacere ascoltare. Invece volevo salutare l'avvocato Taormina, sempre molto grazioso. Molto grazioso. Ah, grazioso, ho capito. Ti voglio augurare una lunga vita, veramente. Sì, guardi, presidente, questo non le fa molto onore, però diciamo, massima stima per l'avvocato, ma dico perché proprio lui e non un altro, magari anche Di Pietro è un ex magistrato, no? Come dice lei, dico, io la credo. Cosa ne pensa di Pietro, presidente? Di Pietro, devo proprio dire quello che ne penso. Dico, dal suo ruolo istituzionale, presidente. Ah, dall'alto del mio ruolo istituzionale. Io, diciamo che Antonio Di Pietro ristituirei la lingua italiana, proprio vicino a casa sua, mettere in una scuola privata, proprio Di Pietro International School. Sì, come Radio Napoli problema. International, ovviamente. Bravissimo, che ora dovrò chiamare appena finisco con voi, sì. Ah sì, chiamerà e dirà grazie per essere stato per avermi invitato a Radio Panorama. Ovviamente. Lui dirà, la marchetta, però spero mi farete avere almeno qualcosa sul mio IBAN ora. No, presidente, non lo dica in diretta, siamo in diretta, non allora, può dire. No, presidente, è sempre in diretta. Non sta parlando con me. Ah. Pensavo che si fosse staccato il collegamento. No, lei in diretta la stanno ascoltando tutti, anche i giornalisti. Ah, vabbè, allora saluti, ciao. Ma come, presidente? No, dico saluto chi ci ascolta. Ah, certo. Me ne vai, sì. Senta, l'ultima cosa. Sì, mi dica. No, diciamo che adesso ci saranno... Non ci faccia caso, presidente. È colpa mia. Dico, ci saranno adesso delle riforme, no? Che il Parlamento si sta, diciamo, prodigando ad approvare, la riforma della legge elettorale, e poi ha sentito che Di Pietro, anche se so che non le va genio, e Vendola stanno presentando un referendum per quel che riguarda la modifica, l'abrogazione dell'attuale articolo 18. Ma lei cosa ne pensa? Ci vuole questo cambiamento della legge elettorale fatto in questo preciso momento o no? E poi il referendum dell'articolo 18 è corretto secondo il suo pensiero o no? Presidente, che sta facendo? Io penso che sia corretto. Ma ha fatto un conto? Ma come le è uscito? No, assolutamente. Ma presidente, l'abbiamo sentito? No. Ma lei è così che lascia le dichiarazioni? No. Dicendo che è frutto di un lungo ragionamento, ma siccome non mi ricordavo a cosa ero giunto, per ricordarlo ho fatto un piccolo amele mele mu. Ma non è vero. Vabbè, guardi, presidente, la risposta è sì, quindi lei crede che tutto sia... Sì. Va bene, sì. Questa è la voce del Colle. Va bene, presidente, la ringraziamo. Chiami subito Radio Napoli International, sì, perché sennò... Viva Napoli! Viva l'Internazionale! Viva Napoli! E viva Giancarlo Mattello! Sì, grazie, presidente, lo diremo. Va bene, grazie, presidente. Ci ascoltiamo subito gli M.O.P. con Eren Up. ritorniamo subito in diretta e ridiamo subito i contatti. Allora, 380-7690-204, gli sms, e poi facebook.com/ondainonda, la nostra pagina Facebook, mentre twitter.com/ondainonda, la nostra pagina Twitter. Bene, allora, continuiamo con le nostre notizie più strane, che ci piacciono tanto, vero Bummo? Vero, Andrea. Ma tu, che voce era quella? Sembra uscito tipo Orso Yogi. Sì, ti è uscito vero, vero, bubu. Allora, Macerata, dopo aver sorpreso l'ex fidanzato a letto con un'altra, gli si scaglia contro e lo morde sui genitali. L'uomo, un trentenne di Macerata, ha rischiato di essere evirato. Al pronto soccorso gli hanno applicato numerosi punti di sutura e lo hanno dimesso. Quanti di voi in questo momento si stanno stringendo le gambe dicendo aia aia? Casi simili, come quello di Rolena Bobbitt o di Catherine Kiebecker, anche se il portiere catanese aveva fatto le sue parti più preziose, un paio di sere fa l'uomo era in casa, in compagnia della nuova fiamma, la ex, una trentenne dell'est, ha iniziato a urlare fuori dalla porta, voleva un chiarimento ed era ubriaca. Lesione di 5 cm, l'uomo seminudo è uscito in giardino, ha tentato di intavolare una discussione, ma l'ex si è scagliata contro di lui, lo ha buttato a terra, lo ha zannato ai genitali provocandogli una lesione di 5 cm. I sanitari che l'hanno medicato hanno medicato il ferito, hanno informato i carabinieri. La perdono, è stato un gesto stupido, racconta lui, ma capisco che la mia ex ha agito in un momento di poca lucidità. Ma come la perdono? Ho deciso di perdonarla e per questo non sporgerò denuncia. Io dico solamente e da oggi avrò una palla sola, una palla. La perdono perché voglio indietro l'altra mia palla che mi manca tanto. Va bene. Allora, io vorrei sapere invece da voi, cari ascoltatori, cosa, a parte insomma sapere come avete reagito alla visione del video della famosa, no? che l'avete molti cercato, secondo me avranno preso spunto ora per nuovi tatuaggi. Sì. Ma tra l'altro noi per ora diamo solo notizie sul sesso in questa puntata. Sì, nella tua mente perversa la cerchi tu notizie, non è vero. Io mi dissocio dalle notizie, che poi io guardo i monitor dove lui scorre le immagini e vedo soltanto e solo donne nude, donne con tatuaggi sull'ano, vuol dire che le notizie sedere che più bello al mondo, le notizie che tirano, no? che tirano queste. Sì, va bene, comunque no, vorrei sapere, ecco, visto... questa non la vedi, cioè c'era quella, non la guardi, questa non la vedo, no, l'abbiamo già parlato questa qui. Volevo sapere da voi, cari ascoltatori, visto che siamo in periodo di campagna elettorale, ma in realtà in Italia lo siamo da sempre, siamo, come diceva Crozza martedì, allora siamo 38 anni in campagna elettorale, cosa ne pensate, scrivetelo sulla nostra pagina, delle primarie di Renzi. Ora, veramente, parliamo di Renzi, ma secondo voi è veramente il nuovo che avanza? È veramente la salvezza del Partito Democratico? Oppure è soltanto uno specchietto per le allodere? In realtà queste primarie le vincerà Bersani? Io sono proprio curioso di sapere cosa ne pensa chi ci sta ascoltando, soprattutto dato che in Sicilia ci sono le elezioni regionali, anche se diciamo ancora la campagna elettorale non è partita, ma diciamo ci sono, si vedono già i cartelli, si vedono già subito le manifestazioni pro candidato, che si sa già che sarà candidato, quindi fateci sapere cosa ne pensate e potreste magari far parte, partecipare al famoso concorso in cui vincerete dei biglietti omaggio per Checco Zalone, eccetera eccetera. Ricordiamo che le vere modalità le daremo più avanti nel corso delle successive puntate e sarà a Faenza tra il 28 e il 30 settembre, quindi rimanete sempre in contatto con noi.

positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, fermare, fermare, fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Io penso positivo in quanto credo. Non credo nelle divise né tantomeno negli abiti sacri che più di una volta furono pronti a benedir massacri. Non credo ai fraterni abbracci che si confondono con le catene. Io credo soltanto che tra il male e il bene è più forte il bene. Bene, bene, bene, bene. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, fermare, fermare, fermare quest'onda che va, quest'onda che viene che va, quest'onda che va, quest'onda che viene che va. C'è una realtà sconosciuta che chiede soltanto un modo per venire fuori a vedere le stelle e vivere l'esperienza sulla mia pelle, sulla mia pelle. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, fermare, fermare, fermare questo da che va, questo da che viene che va, questo da che va. Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti nonostante il Vaticano. Io penso positivo perché son vivo, perché son vivo. Io penso positivo perché son vivo e finché son vivo. Niente, nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente, nessuno al mondo potrà fermare, fermare, fermare, fermare questo da che va. Ritorniamo in diretta con l'Onda in Onda con gli ultimi 20 minuti di trasmissione. Abbiamo annunciato, abbiamo ascoltato il loro singolo Insonnia poco prima della pubblicità. E con noi qui al telefono in diretta Paolo degli Antidoto. Ciao Paolo. Ciao, ciao, eccomi. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Benissimo, allora Paolo, spiegaci un po' il vostro progetto. Siete una rock band salentina e avete fatto questo CD Antidoto. Tra l'altro il primo singolo, l'Antidoto, è diventato subito un hit. Vi siete esibiti a Bari come opening act per il Saturday Night Live di Canale 5. Spiegaci questo progetto. Sì, certo, certo. Sì, allora il gruppo è nato, appunto, siamo un gruppo, una band salentina. Ci conosciamo in realtà da più di 10 anni ormai con tutti i componenti del gruppo. Diciamo il disco, il progetto Antidoto è nato qualche anno fa, 2 o 3 anni fa circa, e abbiamo deciso di unire le nostre forze e di creare appunto questo progetto da cui è nato il nostro primo disco Antidoto, che poi ha dato il nome anche al gruppo, al primo singolo come hai detto tu, che è già andato insomma in promozione qualche mese fa. E in questo momento appunto stiamo promuovendo il secondo singolo del disco, che è Insonnia, che avete già mandato in radio. È un progetto ambizioso, siamo una rock band, ci piace suonare, ci piacciono i suoni diciamo reali. Noi abbiamo messo poco synth nel disco proprio perché volevamo essere quanto più realistici possibili. Perfetto, ma dimmi una cosa, siete in tour in questo momento? Allora, abbiamo suonato, siamo stati in tour fino a luglio, adesso ci siamo fermati agosto e settembre, riprenderemo a fine settembre con le, diciamo, con le prime date. Torneremo il 22 settembre a Bari, a ottobre a Lecce e il 22 novembre a Roma. Ma il vostro sound da cosa trae ispirazione? Perché è una domanda che chiedo sempre a tutti i gruppi che intervisto. Ci sono, si sa che insomma le canzoni poi riprendono anche degli stili che sono già stati usati. Qual è il, diciamo, i gruppi a cui voi fate riferimento? Bah, guarda, in realtà non abbiamo un gruppo di riferimento preciso, anche perché siamo, diciamo, i componenti, noi componenti del gruppo siamo un po' variegati, nel senso che il batterista ha estrazioni più metal, io che sono il bassista ho, diciamo, influenze molto funky rock, e i chitarristi sono di provenienza più rock inglese, insomma, quindi comunque abbiamo mescolato un po' diverse sonorità, abbiamo cercato appunto di creare un nostro sound senza, diciamo, prendere esempio in particolare da un gruppo. Dai Wild Cherry ai Metallica, quindi. Sì, infatti. Perfetto. Ascoltami, avete in progetto di fare un nuovo album? Sì, stiamo già lavorando da circa 5 mesi al nuovo album, abbiamo quasi terminato la scrittura dei brani. Credo entro novembre, dicembre entreremo in studio per le registrazioni. Ah, il pezzo a cui sei più legato di questo album, L'Antidoto, qual è e perché? Personalmente, diciamo, il pezzo a cui sono più legato è Maledetti, perché è un brano che, diciamo, un po' racconta le frustrazioni dei musicisti che spesso vengono sottovalutati. Sappiamo bene che il mondo della musica è un mondo molto difficile. Appunto è proprio una canzone che è uno sfogo a una situazione di frustrazioni dei musicisti nei confronti della musica che non riesce ad emergere. Ma spiegaci un attimo perché c'è questa frustrazione. Io la sento molte volte diciamo nei gruppi che intervisto, che mi spiegano la difficoltà di emergere. Ma sì, in poche parole, quali sono le difficoltà più grandi che un gruppo incontra quando prova a cercare una produzione? Ma guarda, purtroppo la musica, come qualsiasi, insomma, attività commerciale, vive di business, quindi chiaramente le case di produzione, le case discografiche sono molto, diciamo, orientate principalmente dove c'è il business. In questo momento particolare della vita musicale, specialmente italiana, i reality hanno preso il sopravvento e quindi, diciamo, non ci sono altre strade per poter accedere al mondo della musica. Dici che oscurano un po' chi fa musica sul serio? Beh sì, esatto, perché comunque è un po' il reality un po' appiattisce quella che è l'arte, diciamo, l'estro del musicista, del compositore in generale, no? Quindi diventa un po' scrivere una canzone non perché vuoi esprimere, vuoi raccontare qualcosa, ma perché devi vendere. Esatto. Va bene. Paolo, noi siamo quasi in chiusura, quindi dobbiamo accorciare tantissimo. Ci scusiamo con te per questa intervista velocissima. Abbiamo già ascoltato Insonnia, adesso ci ascoltiamo invece il primo vostro singolo, che è appunto L'Antidoto. Grazie Paolo e bocca al lupo. Credi il lupo, ciao. Ciao. Portare tutta questa gente, ho bisogno di un antidoto che faccia sopportare questi nervi tesi. Un antidoto che faccia ridere di me, che serve equilibrare i pesi. Avrei bisogno di un attimo per preparare il mio antidoto. Si prende cura di me ogni volta che ho paura di te. Esiste solo un antidoto per i veleni di spirito. Si prende cura di me ogni volta che ho bisogno di te. Tengo stretto dentro me questa mania di contarmi storie senza meta, puntualmente resto in astinenza come stessi solo a fare un'altra dieta. Porto a spasso il tempo e so che il tempo non si può tenerlo troppo sulla braccia. Forse resto ancora un po' a torturarmi e so che tanto non mi lascio in pace. Avrei bisogno di un attimo per preparare il mio antidoto. Si prende cura di me ogni volta che ho paura di te. Esiste solo un antidoto per i veleni di spirito. Si prende gioco di me ogni volta che ho bisogno. Avrei bisogno di un attimo per preparare il mio antidoto. Si prende cura di me ogni volta che ho paura di te. Esiste solo un antidoto per i veleni di spirito. Si prende gioco di me. Credi di avere un'anima nera? Ti senti destinato alla dannazione eterna? Redimiti col film brutto della settimana. È il momento più atteso di Radio Panorama dell'Onda in Onda. È con noi Marco di Film Brutti. Ciao Marco! Ciao ragazzi! Come stai? Tutto bene, voi? Benissimo, benissimo. Allora, che film consiglio già chi è stato cattivo e vuole autopunirsi? Ma stasera un capolavoro della fantascienza action degli anni Ottanta. Eccola là. Il titolo è Megaforce, che è già tutto un programma. Megaforce. Esatto. E la trama è bellissima. Praticamente c'è la pacifica Repubblica di Anguria che è minacciata dalla bolscevica Repubblica di Sghindescia. Ma la Repubblica di Anguria? Esattamente. Madonna. E chiaramente la Repubblica di Anguria, una Repubblica pacifica, non può permettersi, diciamo, di affrontare questi cattivoni allo scoperto, e quindi ingaggia la Megaforce, che è praticamente un gruppo di mercenari votati al bene, che chiaramente poi sgomineranno i cattivi e risolveranno la situazione con la felicità dei grandi e piccini. Il film è meraviglioso, a partire proprio dai costumi dei soldati della Megaforce. Sono le classiche tutine attillate anni 80, stile Power Ranger. Esattamente. Ma mi sembra che ci siano proprio i Power Ranger Megaforce, cioè, ma può darsi, ci sarà stato una specie di crossover, immagino. Anche perché poi so che da questo film sono stati anche fatti gli action figure del protagonista, il capitano Asso Laser, insomma, dei vari componenti. E hanno venduto i pupazzetti. E probabilmente ne hanno venduti due o tre, insomma, qualche parente. Senti, ma la regia? La regia è di Hal Needham. Nome dice già. Nome di spicco, diciamo, della cinematografia degli anni, di quegli anni, insomma, che, diciamo, basa tutto sui mezzi, perché sono bellissimi, veramente sono delle ape car tabogate con il cartone, tutte rimesse futuristiche con cannoni che sparano fischioni che non vanno mai al bersaglio, ma il bersaglio puntualmente esplode, in tripudio di scoppi, macchine che esplodono così al minimo tocco, cofani che partono in verticale, macchine che esplodono di lato, ma sono veramente delle cose questo film meravigliose, veramente incredibili. E poi c'è quella che forse penso sia la scena madre del film, la scena clou. La scena clou è quella che vede il capitano Asso Laser e la figlia del presidente della Repubblica di Anguria, tra i quali nasce ovviamente anche del Tenero. Sì, vabbè, come si chiama la figlia del presidente della Repubblica di Anguria? Guarda, no, onestamente non ricordo nemmeno se viene pronunciato il suo nome in tutto il film. È troppo chiedere, guarda, già l'ha visto. Guarda, l'unico nome che uno si ricorda poi è il capitano Assolacer, perché praticamente viene usannato per tutto il film, riesce a fare delle cose assurde, tra cui volare con la moto nel finale, semplicemente impennando lui poi vola, perché lui è il capitano Assolacer e riesce a fare tutto. Ma è questa la scena clou, era un'altra? La scena clou in realtà è un'altra, perché ci sono loro due che si buttano dall'aereo con il paracadute. Parte una scena bellissima di abbracci nell'aria, loro diciamo amoreggiano così, e poi dice come fanno a fare la scena. Praticamente si vede un palo enorme dello stesso colore della tuta della ragazza infilato praticamente in mezzo alle gambe, ed è una cosa clamorosa veramente. Cioè, quando vedi questa scena ti alzi in piedi sul divano e applauso di 12 minuti, è una cosa standing ovation. Veramente fantastica, veramente fantastica. E, a dare ulteriore diciamo peso al film, ci sono delle queste perle di saggezza regalate diciamo dai soldati della Megaforce, tra cui diciamo possiamo citare il motto un fatto è un fatto solo se è fatto. Mamma mia, che virtuosismo. Riguardo alle donne ce n'è una un po' piccante, dice le ami un po' meno, le ami di più, ma soprattutto le ami laggiù. Diciamo che va un po' diciamo così a stuzzicare la fantasia dei maschietti. E poi il motto che chiude il film, che è il segreto di ogni bene, chi l'ha in tasca se lo tiene. Guarda. Pronunciato appunto dal capitano Assolacer mentre vola via con la moto, che chiude diciamo questo film epico. È da Oscar questa scena. È da Oscar veramente del brutto. Guarda, abbiamo appena scritto su Facebook nella nostra pagina un fatto è un fatto solo se è fatto, con la citazione di Megaforce, perché ne valeva la pena. Assolutamente. Va bene, allora, per chi stasera vuole autopunirsi, consigliamo quindi Megaforce di, ripeti il regista? Al Midam, quindi andatevelo subito a cercare e autopunitevi stasera, perché sicuramente tra di voi l'ascolto qualcuno ha fatto il cattivo, ha bisogno di autopunirsi. Va bene Marco, ti ringraziamo, noi siamo in chiusura, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie a voi ragazzi. Grazie Marco, ti salutiamo. Forza Sicilia! Ciao! Ma chi è? Questa è la mia moglie. Salutiamo anche la moglie di Marco. Come si chiama? Si chiama Sheila, voleva salutare. Allora perché abbiamo seguito le vicende matrimoniali. Infatti, ormai abbiamo fatto tutto il resoconto matrimoniale. Salutiamo Sheila, allora. Salutiamo soprattutto tutti quelli che sono stati con noi, tutti quelli che hanno cercato il video, no, della ragazza che si è tatuata lì dietro. E ci ascoltiamo subito il prossimo pezzo. Ci rivediamo mercoledì prossimo, sempre qui con Radio Centrale e Radio Panorama, scusate, L'Onda in Onda. E rimanete con noi, perché subito dopo ci sarà Positive Vibration con Claudio e Riccardo. Drown. We are the most, yes, the deadliest guys. good job.